Speciale, la politica nel tunnel. Non c'è un italiano che sia interessato a sapere che cosa faccio io da grande, ma ci sono tutte le persone normali di questo paese che dicono ai palazzi della politica: decidetevi. Sono passati più di 40 giorni dall'elezione delle elezioni politiche. Quando si è votato ancora non c'era la sede vacante in Vaticano. Ora persino la Chiesa, che non è propriamente un modello di speditezza, è riuscito a organizzarsi, e avete visto in che tempi. Noi con il sistema politico che abbiamo non abbiamo ancora capito chi ha vinto e chi ha perso le elezioni. Dare la colpa della situazione di difficoltà al Presidente della Repubblica è una barzelletta. Ricorda quelli che quando vedono il traffico per la strada danno la colpa ai vigili. Giorgio Napolitano è stato in questi 7 anni una assoluta certezza per il paese. Meno male che c'è stato Napolitano. La politica nel tunnel. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta e dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. E buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito, l'avete sentito. Partiamo subito dal ciclone Renzi nel PD. Sono tornati un po' i fratelli coltelli, Vincenzo. Abbiamo sentito non dare la colpa ai vigili del traffico, non dare la colpa a Napolitano. Però il sindaco di Firenze torna ad attaccare, il Partito Democratico deve decidere cosa fare. La Chiesa ci ha messo di meno. In sostanza Renzi dice: o c'è l'accordo con Berlusconi o si va a votare, basta fare melina in attesa che Bersani magari ottenga l'incarico. E oggi pomeriggio a Renzi ha risposto anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Non credo che stiamo perdendo tempo, ha detto il Presidente della Repubblica riferendosi a Matteo Renzi. Risponde anche il segretario Pierluigi Bersani, che a Renzi dice: siamo qua un partito dunque spaccato, e i bersaniani insorgono contro il sindaco di Firenze. In particolare si rimprovera a Renzi di dire le stesse cose di Berlusconi: o governissimo o voto. Ma sentiamo allora quanto ha detto poco fa Beppe Fioroni. Renzi è una risorsa importante per il Partito Democratico, è un giovane molto intelligente. Fa un'intervista mentre stiamo parlando di capo dello Stato per parlare di governissimo o voto, come dire, dall'idea di qualcuno che intende far saltare il tentativo che è il vero rinnovamento, è il vero cambiamento, cioè l'elezione di un presidente largamente condiviso all'interno della Camera e del Senato. E far saltare l'elezione di un presidente condiviso per tornare a un presidente di divisione significa voler favorire il Big Bang dell'Italia e delle forze politiche. Se così fosse, sarebbe un atteggiamento irresponsabile. Oggi quell'intervista sembra un estremo tentativo di riportare le polemiche subdole e false, inciucio, mercanteggiamento, mentre di fatto eleggere in modo condiviso il Presidente della Repubblica significa il vero rinnovamento, il vero cambiamento di questo Paese, perché si finisce dalle contrapposizioni tra nemici per trovare a confronti aspri, ma tra forze politiche che si riconoscono legittimamente. Ma non è una candidatura a Palazzo Chigi di Renzi? Lei non la vede così? È che ciascuno di noi credo debba anteporre l'interesse del Paese e il bene dell'Italia ai propri interessi. Io riconosco che Matteo Renzi aspiri legittimamente ad andare a Palazzo Chigi, ma se andarci nel tempo e nei modi sbagliati significa far fare all'Italia la fine di Cipro, significa volere il male del Paese, e mi auguro che Renzi contribuisca a fare un Presidente della Repubblica unito, che unisce le forze politiche e non che le divide, perché se lavora per un Presidente di divisione forse lui potrà andare pure a Palazzo Chigi, ma fa il male del Paese. Ma il PDL propone Emma Bonino, alcuni del PDL. Voi avete candidato Emma Bonino in un tempo alla Regione Lazio. Io voglio un presidente che faccia il bene del paese. Emma Bonino l'ho votata da presidente della Regione Lazio. Credo che abbiamo tempo per poter condividere e scegliere insieme un ottimo presidente senza pregiudizi per nessuno. Ecco, il presidente candidato ovviamente alla carica del Quirinale era quello del PDL, Emma Bonino, mentre su Renzi parlavamo di Palazzo Chigi. Intanto il segretario del PD Pierluigi Bersani incontra oggi pomeriggio il premier uscente Mario Monti. Al centro del colloquio ovviamente ci sarà anche il nodo relativo al decreto per sbloccare i pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, e poi anche un primo colloquio proprio appunto per l'elezione del Presidente della Repubblica che entra nel vivo, Vincenzo. Sì, entra nel vivo, soprattutto da parte del PDL continua, Elisabetta, questo pressing nei confronti del Partito Democratico. Nel PDL la proposta, lo ricordiamo, è sempre quella del governissimo e di una scelta condivisa per il Quirinale. La Camera, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, inizierà a votare per l'elezione del prossimo Capo dello Stato il 18 aprile e, come abbiamo sentito, alcuni esponenti del PDL propongono Emma Bonino come Capo dello Stato, una candidatura che non può essere rifiutata dal Partito Democratico perché, spiegano dal centrodestra, Emma Bonino è stata candidata del centrosinistra nel Lazio. Riguardo all'affondo di Renzi, tutti concordi nel PDL: per Anna Maria Bernini è la sinistra dal volto democratico, per Altero Matteoli Bersani deve prendere atto di Renzi. Ma sentiamo allora su questo Gianfranco Rotondi, proprio del Popolo della Libertà. Renzi dice una cosa di buon senso, strano che la dica lui perché non ci riesce sempre. Ah, questo è il suo parere, quindi bisogna fare l'accordo con Berlusconi, col PDL? Sì, mi pare evidente che Bersani, se vuole fare un governo, o si mette d'accordo con Berlusconi o non lo fa. Magari Renzi gli ha tradotto le cose che noi comuni mortali capiamo da prima. Senta, invece il PDL avanza questa ipotesi su Emma Bonino al Quirinale? È un nome rispettabile, mi sembra che non ci sia da commentare l'altezza della militanza istituzionale della Bonino. Io personalmente preferisco Franco Marini. Quindi lei si pone in una situazione diversa, cioè perché come cattolico la Bonino? Sì. C'è una tradizione non codificata per cui c'è un'alternanza tra laici e cattolici, dopo Napolitano, dopo Ciampi, credo che sia venuto il momento di riportare un cattolico al Quirinale. Il mondo dei cattolici democratici esprime ancora tante personalità, ho detto Franco Marini, ma potrei aggiungere Gerardo Bianco, tanti altri che sono più che degni di essere al Quirinale nel segno di una tradizione che ci ha dato la Costituzione e 40 anni di stabilità politica. Queste dunque le parole di Rotondi del PDL sul prossimo inquilino del Colle. Nel Movimento 5 Stelle intanto c'è attesa per l'incontro tra Beppe Grillo e i parlamentari che si dovrebbe tenere a Roma domani, ma scoppia il caso dei cosiddetti frondisti. Al centro delle polemiche c'è Tommaso Currò, il deputato siciliano auspica un confronto con il PD dopo che Grillo aveva detto agli elettori ha sbagliato a votarci chi voleva l'accordo con il Partito Democratico, e sarebbe una trentina di dissidenti pronti a votare un esecutivo non a 5 stelle. E dal Movimento, rispetto alla scelta del Capo dello Stato, si ribadisce che ci sarà un referendum sul web, online quindi. Quindi online, loro tutto online. E intanto sul fronte parlamentare il Movimento 5 Stelle vuole invece che si insedino le commissioni anche senza governo. Poco fa ci hanno portato qui proprio in sala stampa a Montecitorio i precedenti di quando si sono insediate senza governo. Si parte dal 1976 con presidente incaricato Giulio Andreotti, al 79 incaricato Bettino Craxi, al 92, insomma ricordi lontani di Prima Repubblica. Noi chiediamo ai deputati e ai senatori 5 Stelle, basta che non ci riportiate alla Prima Repubblica dove si è formato, lo sappiamo, il buco del bilancio del debito pubblico. Allora intanto però, scherzi a parte, abbiamo sentito su questo fronte Roberto Fico, anche sui frondisti, il deputato 5 Stelle che è un fedelissimo di Beppe Grillo. Sentiamo Fico. È incredibile che nell'ufficio di presidenza il PD e il PDL e Scelta Civica di Monti hanno dichiarato che non vogliono costituire le commissioni se non si costituisce prima un governo. Questo significa bloccare l'attività parlamentare, come se avessero occupato il paese, decidono loro queste cose qua, e come al solito PD e PDL insieme sono un cancro per la democrazia vera. E quindi noi del Movimento 5 Stelle vogliamo che si costituiscano le commissioni subito, già siamo riuniti noi in commissione, abbiamo dato i nomi, stiamo lavorando ai progetti di legge che presenteremo. La Camera si riunisce martedì ed è incredibile che si è riunita soltanto ieri per un quarto d'ora in cui noi abbiamo fatto l'unico intervento. Sono lavori troppo lenti, dobbiamo velocizzarli, essere più strutturati e cercare di lavorare meglio in questo Parlamento se i gentili PD e PDL lo permettano facendo costituire le commissioni. Riguarda invece questa fronda interna, Beppe Grillo ieri è stato molto duro, ha detto chi voleva l'accordo col PD poteva anche non votarci, ma ci sta questo malumore della base di alcuni parlamentari? Ma ci sono delle cose molto chiare, perché noi facciamo le riunioni che sono molto lunghe, ci sono tutti quanti i parlamentari, i deputati e anche i senatori quando le facciamo congiunte, parliamo di ogni cosa e nell'ultima riunione che abbiamo fatto abbiamo parlato di tutto, anche di presentare una rosa, un nome, una rosa di candidati. Abbiamo deciso che questa cosa a maggioranza molto schiacciante non andava fatta e non andava bene. L'accordo col PD è una cosa che già abbiamo votato e abbiamo detto di no all'unanimità e quindi continuiamo così. All'unanimità o a maggioranza? All'unanimità la fiducia al PD di no, chiaramente. Quindi nessuno ieri ha espresso malumori? Allora, non significa esprimere malumori, significa che quando c'è una riunione democratica di un gruppo parlamentare e tutti quanti dicono la propria, alla fine si tirano le somme, magari anche votando, e la stragrande maggioranza nell'ultima riunione ha detto che la linea doveva essere quest'altra qua. E come il nostro codice di comportamento dobbiamo rispettare la linea che esce dalla maggioranza. Tutto qua, molto chiaro, senza fronde, senza niente, tutto trasparente alla luce del sole. Nessuna spaccatura dunque all'interno del Movimento 5 Stelle, secondo Fico del Movimento 5 Stelle. Ma la Lega in tutto ciò cosa fa? Maroni auspica l'elezione di una donna al Quirinale e poi propone via Equitalia dalla Lombardia. Entro l'anno quindi il nuovo ente del Pirellone. La riscossione dei tributi, dice Maroni, deve essere più vicina al territorio. Maroni insiste poi sulla macro regione del nord e assicura di andare avanti anche sul famigerato, diciamo così, progetto della moneta complementare voluta da Formigoni. E come la chiameremo? Doblone, il Padano, addirittura Pierluigi Bersani del PD diceva il Marone, la moneta, noi ringraziamo i nostri angeli custodi che sono Paolino Corleoni e Valeria Bernardi, un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.